attenzione su 10, c'è qualcuno? Ehi, chi è? Ciao. Ciao Gianni. Allora, non sto bene. Io mi è venuta a tachicardia dal caldo, che faccio il condizionatore, ma crepato. Adesso io sono con la coperta sopra perché ho freddo, immagina. Ti ho mandato un messaggio, non so se l'hai ascoltato. No, Luca, te l'ho detto, non stavo bene. Mi sono addormentato, tutto il giorno addormentato sono, perché sono con mal di gola, raffreddato, sto male, dai, debolezza. Allora, perché avrò usato l'aria condizionata? Air conditioned. Aspetta che sto guardando. Infatti acceso il condizionatore per quello, come acceso il condizionatore mi è passato, però poi va via il sigado, cioè attaccavo dalla maglia, attaccavo dall'altra, ieri mi sentivo debole, non c'avevo equilibrio, ero strano, ero stanco. Mi è durata la glicemia, c'era 130, non ce l'avevo, sono altissimo. Beh, ma infatti quello non è questione di glicemia, già. Adesso sono con la coperta, adesso dimmi di sicuro di sempre la coperta con questo caldo, se no mi venivano i brividi di freddo. Un colpo d'aria, dai, sicuramente è quello. Io ho preso un colpo d'aria perché il condizionatore è la manetta, quindi per quello anche. Per quello sì. Mi piace, però poi vedi che gamba. Ho avuto Marco cantare oggi perché non c'ho voce. Che so sì che è grave. Già... Ha detto quello sì che è grave. Sì, è grave, sì, perché a me piace. Vabbè, la passerà. Io sono uscito di notte. Sono svagato, però non ero me stesso, mi sentivo debole. Perché tu devi cantare in radio, devi cantare, se no non entra nessuno già. Almeno ti sentiamo, no? Poi se torno a casa avevi avuto questo mal di pancia forte, una colica. Pittina. Ti ha mangiato la pizza con i frutti di mare, magari inizio un burro. Io l'ho mangiata quando è verdi e frutti di mare, tutto un olore. Però l'ho mangiata con la zuppetta di frutti di mare, cozze, arselle, eccetera. Era buona, però non lo so che cosa, ieri ero proprio, non ero predisposto a... Luca. Con che apparecchio sì. Gianni, aspetta un attimo, ti vuoi salutare una persona, vai. Ciao già, Antonio Zongo. Antonio, la diretta da Oritano. Sono a Nuraco, se sono. Ciao tu. Dove sei, a casa di Luca? E Nuraco, se cosa a casa di Luca? Al telefono siamo già. E vai, e chi lì? No, siamo al telefono già. Io sono fuori, sono a Nuraco. Dopo la prego. Dove sei tu? A Nuraco sono. Non so dove. Aspetta già un secondo, che ho solo il telefono, sono in radio. Sì. Sembrava a casa tua, sentiva benissimo. Avevamo sentito la voce. No, se no ti rientrano, saranno detto, ma sarà 4, è lì a Nuragus. E hanno fatto anche il concerto di Angelina Mango, mi ha detto, però lui non c'era lì, naturalmente. ma che sto usando? Un 14 già sto usando, un 14 che mi è arrivato, mi l'ho messo sotto per vedere se va bene, perfetto. E tutto e per tutto ho fatto il solito lavoro dell'apertura cicalina e basta, il resto è perfetto. Capo. Troppo forte, abbassa la radio, che è troppo forte. Ed è sotto la I, aspetta, abbasso ancora, e gliel'ho aperto tutto, capito? Farà così 1, 2, 3 prova. Adesso va bene. E magari sei tu che hai toccato, basta un millimetro e aumenta di brutto. Allora, cosa brutta di queste radio che non hanno lo squelch qua, queste. Vabbè, ma già sono bene radio, dai, fanno bene. Io ascolto con la colonia e andava benissimo. Mettiamo la colonia. Ma io chiudo il refrigerio quando tanto. Per il locale, anche se chiudi il refrigerio, guarda, hai alzato un po' il volume, si è a posto. È come ti fa lo squelch serrato. Sì, ci abbassa un po' il segnale, no? Non è quello il problema, dai. Già si trova il metro. Ma intanto già, è tutto qua, mi siamo, non è che io sia rientrato che non ho potuto d'ora, da riera, così che... Lo so, ma c'era quello di Sorso che stava entrando ultimamente. Antonio di Sorso, non so se l'hai mai sentito. Sì, sì, anche il vice, perché è venuto che gli ho dato del cavo dell'H155, è venuto qua, gli servivano 25 metri di cavo, alfa 1. Quindi l'hai conosciuto anche? Sì. Per sistemarsi, cambiarsi il cavo, però deve sollevare l'antenna. Deve sollevare l'antenna, qua arriva a 8, una cosa del genere. Solo che purtroppo ha paura dei problemi della padrona in casa, che dica cosa, tutti questi problemi qua, usa quando sei in casa così. E dove devi dire? Ma sa che non rubi nulla piazzando l'antenna. Cosa ne vedi? Ma se ne muore in bocca di problemi, io l'avrei fatto. E dopo si dice, ma cosa l'abbiamo abbassata di nuovo? Adesso dove c'era l'antenna? In basso. Bassino, eh. Dal tetto, se non sbaglio, è 1,5 metri forse. Aspetta che ci guardo, ma va, mandato la foto. Detto lì devi mettere altri 4 metri di palo. Perché le staffe sono buone quelle che ci ha montate. Che antenna c'ha? Là, come questa di Antonio. Io mi arrivo a 8 per mezzo. Si vede che anche in zona negativa per noi. Provo a sollevarla, se però magari la sua zona, se c'è qualche ostacolo. Può darsi pure. Perché Sorso noi ce l'abbiamo di fronte, Lui è verso la fine però. E vabbè, ma lì c'è anche, come si chiama, qui il portatore, il gabbio, e arriva benissimo qua. Che ti devo dire, ora sarà bassa l'antenna, sicuramente. Bassa è bassa, così come ce l'ha è bassissima. E il gabbio non arriva all'1,30 qua. Gli ho detto anche di cambiarsi almeno di mettere un microfono preamplificato, perché con quello lì già è basso il segnale, in più anche di radio. Gli ho detto almeno metti un microfono preamplificato, bene o male arrivi almeno di radio. Ma mi sembra che va risolto, si era messo d'accordo con Antonello, non so. Ciao, non me ne sembra certo che non l'ha aperto. Infatti, guarda, manco la ventola si sente. Ed è chiusa la radio, perché tra un ripiano e l'altro. Vabbè, quando è così va bene, vuol dire che è pulita. Avete tenuto molto bene, gli slider non ce n'è uno consumato, sai come ti idratano i nuovi che cose. perfetto, veramente perfetto. Oggi l'ha posto in vendita, non so se l'hai visto. Se me ne voce tutti i radio. Caraga, e magari Antonio non voleva qui, non lo so, ha detto che non c'era nessuno, però. Ma ha detto che si trova molto bene con questo che ha, il Cobra se non sbaglio. Gli piace moltissimo, una bella radio, caspita. Un bel baracchino il Cobra. Chi era? È bello quando c'è una banda laterale. Non ce li ha quello? No. Ah, non lo sapevo. Vabbè. Ma che com'è? Come il 555, no? No, è tutta un'altra cosa. Diciamo che è tecnologico come apparato, cambiano i colori dello smitter, c'ha diverse funzioni, capito? Però siamo lì sempre, i batti sono quelli, i canali sono quelli, capito? Le stanno cambiando questa radio, l'estetica è fin fine. Sì, e a lui che ti prende, a me mi ha preso subito, l'ho comprato, quello era mio. Ma poi quando si è con uno, ti riesci bene con quello e gli altri li metti sempre da parte. Però io questi che ci esco con tutti e tre esco bene, per cui li tengo tutti e tre e poi completano tutta la stazione, mi piace vederla, questi sono tutti incastonati, non è che siano puri, no? Ma di solito usi cosa usi il coso? Il Saturnecco. Adesso c'è lo Saturnecco. Usa anche il Cobra, li faccio girare. Chiaro. No, già vai bene. A voglia. Aspetta che commuto. Si è appagato. Ok, e questo è l'altro. Questo cos'è? Quello che ha fatto. Questo qui è la lava più corposa. Come timbrica, è più strappato anche, guarda, è a uno, Roberto, come ti dice, sì, che è troppo lunga, adesso va bene comunque, all'inizio era basso, ciao Marco. Buonasera a te. Marcoli. Dopo tanto tempo sono in antenna diretta, Niente rosmetri, niente filtri, niente, antenna diretta. Devo testare. Ti hai venduto tutto. Perché questa scelta? No, per capire se il filtro è utile o no. No? Se qualcuno si lamenta, vuol dire che il filtro è utile e lo rimetto. E se no, no. Magari qualcosina si guadagno, perché danno perdite agli spinotti, non sembra, ma la danno. Il filtro poi non ne parliamo, il filtro ruba un quarto di watt, lo sai, se hai 4 watt te ne toglie uno. No, io c'ho il rosmetro attaccato perché qui lo tengo sotto controllo e basta. Ehi, avete visto il caldo boia di oggi, poi quella cappa di calore fatta anche dalle nuvole, tipo effetto serra, a me. Marco, io sono fatto ieri attacchi caldi, ho attaccato al condizionatore e mi ha crepato, adesso sono con la coperta perché mi vengono i brividi di freddo. Io non lo accendo quello in casa perché, a parte che il cappotto per fortuna sta facendo il suo lavoro, cioè qua prima c'era molto più caldo senza il cappotto sta schermando dal caldo, e quindi per ora guarda nel salone sto usando il ventilatore a soffitto, e boh, vai Luca. Sì, e soprattutto devi tenere le finestre chiuse, perché se apri le finestre entra il caldo e il cappotto alla fine non serve a niente. Sì, ma infatti noi apriamo le finestre solo di notte. Quando rinfresca apriamo tutto da una parte e dall'altra, cioè verso la strada, verso l'interno, e le lasciamo aperte, non tutte, ma quella della camera mia sì. Quella del bagno la lasciamo chiusa con i forellini della persiana, tanto che passi il fresco. Qualche notte sale qualcuno e mi fa l'allaccio, me la trovo in camera. Se non entra qualche malvagiani. Si fanno come quello che hanno detto diciamo in televisione, il lavoro del cetriolo. E ha detto qual era la verdura che faceva bene alla memoria, che dura, ha detto il cetriolo. Caspita, il cetriolo, perché da piccolino hanno usato il cetriolo e ancora me lo ricordo. porca miseria. è impegnativo quello. Ascolta, cosa vi volevo dire? Niente, riprendete pure. Aspetta che porto il gelato a mamma. Sei uscito voi. Hai sbagliato il ghiaccio con gli animali già, al comando. Eppure io me ne ho presi due scatole di ghiaccio lì e una... e un... questo di gelato da un chilo. No, io mi raggio, però sto cercando di evitare di mangiarlo poi in vaschetta, capito? Sempre per la solita questione, un ghiacciolino all'arancio o al limone. Io mi ho preso due scatole e una è già partita perché li ho offerti, se c'è gente già pranzo, quindi li ho offerti. Ah beh, fai bene, l'importante è che stai attento a tutto. Sì, quanto abbiamo di grafio di droni, chi c'ha la ragione? Ma già lo sai cosa ti fate chi così, già lo sai come te. Luca, puoi mentare appena. Guarda così, Marco. Perché così sei pari a Gianni almeno, se no è troppo basso uno e troppo forte l'altro. Capito già come la musica, bisogna stare attenti, come questa malattia, chiamiamola così. Chiamiamola così, lo so, stiamo attenti quando ce ne ricordiamo. Aspetta, il prossimo mese faccio di nuovo prelievo. Perché? Per i trigliceridi già, boh. Erano a 1000 schede, boh. Devono scendere. A 1000 sono un bel. A 150 devono essere. A 1000 è un bel. Roba grassa stai mangiando, salata, grassa. La cosa già passa, la dieta è passa, qualche fettina impanata, ma roba rossa non ne so più vendi. No, secondo me, è la frutta di stagione che ho mangiato, gli ho detto, molte ciliegie. Ho detto, sarà quello. Ma quello lì sono zuccheri, non c'è tra l'una che ti dice, i triglicerini sono grassi del sangue. Ma grassi da cosa? Avanti Marco, adesso mi devo dare un pezzo di cinghiale, dimmi tu. Allora guardate, così sono 4 watt, 4 watt è come quando uso il 3009, non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è filtro, non c'è spezzone. Ditemi se aveva migliorato rispetto ai giorni scorsi. Quasi ai 9,25. Con lo Smithar serio, e gli altri giorni col 3009 com'ero, col filtro? Marco, devi fare la prova. Quasi oltre 9? Oltre 9,30, sì, quasi sul più del DB. Vabbè, non fa testo in città, avete ragione. Andrebbe fatto in distanza, però non c'è più nessuno. Va bene. Voglio fare un giro di telefonate e far svegliare un po' di gente. Sì, già, io per esempio a pregare non vado nemmeno in chiesa. Manco io, prego a casa. Sono tutti in accorso. Tutti in ascolto, non entra nessuno, io un attimo assento, qualcuno che chiama qualcun altro, poi la bugia lamentali, che non va nessuno, se non rispondi quando diciamo le baffotta. Io tutti quelli in ascolto diano un colpo di portante. Ma come ti dice Guido, che se non entrano li devono aprire a casa. Adesso vedi, se lo chiedi apposta per soddisfazione non te lo danno, invece quando chiami sul 10, attenzione 10, non risponde nessuno e poi vedi pigiare, tic tac, 7, 9, 9 più. Perché una settimana di diarrea male se fa Marco? Marco, Eia. Ho detto perché una settimana di diarrea male li fa? Un po' male già li fa. Torna tutte le ore però, come esce dal bagno subito di nuovo dentro. Vedrai che entrano. Cioè a quel punto tanto vale rimanere sul gabinetto, cioè mangiare lì, dormire lì. E l'importante è entrare in radio, perché sennò come ti alzi dal cesso. Ma voi c'è solo quando c'è il televisore, io lo faccio balzare, io non mi viene attacco. Oh, io mi sono mangiato le mani per quel microfono della Presidente, microfono President Wireless. È compatibilissimo ovviamente con il Presidente, ma adattabile a qualsiasi apparato. Cioè io potevo andare da una camera all'altra e parlare e ascoltare dal microfono, tipo quello Midland, però è universale, capito? Non va bene solo con il Midland, è universale. potevo andare in bagno, farvi sentire tutti i suoni, i rumori, gli odori no magari, Ma che se lo sentisse, Te le immagini? Quello lì purtroppo l'hanno, non lo so perché, non lo producono più. Ti davano il microfono, ti davano la basetta sensore da attaccare sia allo spinotto microfonico che credo all'altoparlante. Credo che fosse alimentato addirittura dall'apparato stesso. C'è il gemello della Uniden lo fa uguale identico, però mancano alcuni spinotti, alcuni adattatori. E quindi alla fine è un'incognita, bisogna ordinarlo dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, che ti chiede 30 euro di spedizione per un oggetto da, che ne vale 50-60. Ma io l'ho fatto la fare con quello video, invece un bel forte è costato una cassata, era in offerta. Già, però il Midland ti fa da Mike normale, cioè da Mike a spinotto per il 48, oppure funziona per l'applicazione Midland, per CB Talk. Questo lo dico io, era un vero e proprio microfono wireless che era indipendente dalle marche di baracchino, indipendente anche dalle applicazioni, da quelle menate online, capito? Cioè tu potevi lasciare la macchina a Piazzale Segni, al centro. Tu te ne andavi in quel bar di lato, seduto fuori, potevi parlare dal bar, tu seduto al bar e la macchina che trasmetteva al centro di Piazzale Segni, per dire me. Se ti senti Antonello, non gli dire queste cose. E così si fa la stazione remota, cioè la stazione rimane in casa e lui dal circolo parla direttamente dal circolo. Per quello non è più stipendio. No, comunque sarebbe carino riuscire a fare una stazione CB remotata. C'è uno che ha una seconda casa, un qualcosa, provare, è proprio per sperimentare. Naturalmente ci vuole tutta l'infrastruttura informatica e ci vuole anche la capacità di saperlo fare. Io volevo fare l'SDR online, ma poi mi sono chiesto, non c'è nessuno. Certo, è comodo per tante altre persone, quello sì, però il discorso è devi tenere il computer acceso, radio accesa, cioè, e tutte le cose, a me non mi costa nulla metterlo, capito? E, la connessione, ci vuole la connessione, io qua uso il telefono come connessione, va alla grande e me ne avanza pure, capito? Però per fare quella roba lì non va bene la connessione così. Ma se ci vuole un'antenna migliore per ricevere, no? No, questa. Quello che ascolta non ascolta, no? Come gli SDR che ascolti tramite il computer. No, allora cosa stavi dicendo? Cos'è che non andava bene per fare quell'attività? Non va bene la connessione, Marco. Non va bene la connessione, la mia non va bene perché io uso il telefono. Ci vuole la DSL proprio, o fibra. Ci vuole la? La fibra ancora meglio. Eppure, guarda, le connessioni adesso, tanto è solo audio mica deve veicolare alla fine. Sì, vabbè, audio, forse qualche dato di, non so. Poi se serviva un computer per interfacciare meglio la radio al computer, il computer lo colleghi all'hotspot del telefono e va in rete. Ma non ce la fa la connessione, Marco, capito? Che gli altri si collegano tramite computer per ascoltare. Non ci vuole per forza una linea DSL. Colto la febbre, 37,8. Non è febbre. E otto niente, solo di febbre. Quella è calura. Tieni avanti. Vabbè, io sono già in caldo. Poi ieri sera hai fatto anche il monello. Si è uscito, no? A fare il gradasso. Sono uscito di notte. Ma pensavo che fosse una cosa passeggera. Invece andate a pescare. Noioia. E ho pescato lo stesso. Gronghi è beccato, cos'è beccato? Cos'è pescato? Gronghi! Cose. Dillo a Marco. Sono andato a mangiare la pizza. Con la gnagna. Con la gnagna. Vedi, oggi c'è la febbre, visto a fare lo scemo, no? Io sono Rocco Siffredi, io sono qui, sono là. E si è rimasto a freddo invece. Sei la Rasuti! Si è accesa la bandana di questa adesso, manco anche quella, manco si sente. Quello che sto pensando è uscire a portare giù il caricas. No, la voce, mamma mia. Non è la chiave, fa andare da solo. Non è la chiave, la fa andare da solo. No, insomma non lo faccio andare. Potrei anche farlo perché c'è il cortile, ma se apro il cancello poi ne sicuro. Marco, che fai? Il cane sta mangiando. Scusa, ha detto che sono andato al generatore, ma è già pigliato un calippo, ma... Il calippo di viace e pigliati. Il calippo di viace e pigliati. Non la conosci quella canzone? Ma non la compro il calippo. Ma però non è che mi attira a comprarle. E la forma è che la fastidia. La cosa che quando lo metti in bocca non ti fai tanta fantasia. Oh, è così che sei diventato qui, Luca. Ma tu gli hai mangiato il calippo. Lo sai che sono diventato gay per quello. Perché ci ha preso il gusto. Ma sono ti è passato un secolo, il nostro raccolti. Tanto, mi stavo usando. Allora di chi ti ha detto buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, Mario Porto Torres. E niente, volevo solamente salutarvi, magari se mi dite come è in modulazione, mi fate anche una grande cortesia. E niente. Microfono originale naturalmente. Avanti, non so chi c'è, ho sentito Marco mi pare, poi gli altri due, non c'è Luca mi pare. Avanti pure. Strappando. Ciao Mario, ben sentito, buonasera. Io arrivo più lungo a questa parte, stai uscendo bene come al solito. Ma non ho capito di te, perché mi sembra risulti cupo come modulazione, quindi non riesco a riconoscerti. Già arrivo più lungo, è cupo perché sono malato, c'ho la febbre. Ah, ciao Gianni, buonasera. Ben sentito, scusate. Ho notato riconosciuto quasi, mannaggia, ho proprio... Sì, proprio tutto tappato, diciamo. Va bene, ok. Bene, no, volevo provare il microfono normale, questo paracchino qua, e vabbè, se c'è bene, sono contento, dai. Io vi ringrazio per il controllo, continuo ad ascoltarvi. E 5 secondi, chiaramente, poi dopo tutto, perché stavo anche seguendo qua una roba su YouTube. E niente, ho acceso per caso, guarda, vi ho sentito, e adesso chiedo il controllo. Dai, con una buona domenica, anche se è molto caldo e invece di stare a casa bisogna mettere la mano in questo periodo qua, mannaggia la miseria. Vabbè, saluto tutti comunque, grazie ancora, avanti chi tocca. Ciao Mario, ciao, ci ha fatto piacere che sei entrato a salutarci, dai. Buona continuazione di serata, avanti Marco. Sì, K, Mario, non so se mi copi, io sono con 4 watt solo adesso. E a Badivi, Santiago 6 e mezzo è una radio ottima. Sì, ti ascolto, segnale 6, radio 5. Poi mezzo al QRM, ma riesco ad ascoltarti, tranquillamente. Io sono antenna verticale, quindi una antenna così, lunga, una 5 ottavi, diciamo così. Ti ascolto bene, senza problemi, come ascolto bene anche gli altri. Bene, grazie ancora, rimani in ascolto. Avanti pure, continuate il vostro progetto. Ciao, ciao, Marco. Avanti. Luca, ma quello, cosa c'ha questo apparato? Perché in un passaggio ci bene, era tutto... Stai strappando ancora. Strappando, aspetta. Allora, più basso di così, ecco fatto. Aspetta. Guarda, lo faccio così. È sempre un po' strappi, ma non meglio. Disattivo qua, guarda un po'. E adesso va bene. Sì, Luca, perché la regolazione gli basta mezzo millimetro ed è o troppo bassa o troppo alta. Com'è il calippo? Io mi sono mangiato una coppetta Olimpia, quella così si chiamava, quella che era metà cacao leggero e metà panna. Ah, pacchi in bagno, mi. Adesso che mi lascio. No, no, io sono rodato, sono abituato a mangiare pasticci e quindi per me è routine. Scusate, ma voi QRM ne avete? Io qua 2 nell'altra radio 8 e 14 8 in questa 2. Io 1 qua. Sì, no, perché notavo che qua è Massimo Santiago, mi lampeggia un pochino il LED del Santiago 1, è quasi una cosa surreale, perché gli altri giorni c'era bulotto di propagazione. Comunque io credo che, no, niente, non ve li dico. Questo ti tiene sulle spine, Gianni. Sui cardi. Sui cardini. Ma non ho capito cosa è successo a Gianni. Cosa gli è successo? Ha avuto glicemia, ma la febbre cosa c'entra? No, ti spiego. La glicemia non c'entra nulla, non l'ho misurata perché non stavo bene, pensavo fosse quella, non era quella. Allora mi è venuta tachicardia dal caldo. Io ho acceso il condizionatore e me l'ho crepato, capito la febbre cosa c'entra. Sono i condizionatori che mi hanno crepato. Ah, quello che hai detto prima, avevo capito, capito. Sì, infatti hai la voce un po' cavernosa, tipo così. Come prende a me? Io come becco il clima della macchina o quello di casa, subito mi prende la gola, subito. Ieri Marco, ieri è uscito con una ragazza e gli ha detto tu sì che sei già nel caldo, e ancora la voce è calda. E allora, ma io sono già nel caldo da tanto, non da adesso. E sta ancora pensando a tutto quello che ha fatto, capito, per 4 ore filatte. Ma sono uscito alle 8 e sono tornato a mezzanotte e mezza, 9:15. Ah, dopo la pizza gli ha dato il dessert. Era bravo, lo si dice, c'è secondo. Poi Cali. Era impegnato politicamente. Impegno mondiale. Ti ho detto vieni ti faccio vedere Faraglione di Matera. Ti ha detto ma se siamo in Sardegna? No, che non ho fatto niente. Abbiamo mangiato la pizza e siamo andati in giro, passeggiato, fatto. Non l'hai portata a Balai, no? Come fanno tutti? Sì. Anche a Balai sono andato. A Balai c'era la festa, arrostivano, c'era una bella festa ieri. Arrostite di brutto, c'erano tutti i banchi per sedersi, tu mangiavi a crepadura. La Cilia l'hai portata? No, siamo andati all'Ustrica. Cararello. All'Ustrica. No, ma se mi la Cilia almeno mi vedi più. Mi sono sentito male la volta che ho mangiato la pizza io e la mia ex moglie. Tutti e due male ci siamo sentiti. Non mi vedi più. Ma magari avevate mangiato qualcosa prima, ma già dai, se noi abbiamo assarrato, se ha fatto male a voi due, chissà quanti ha fatto male, scusa Vai che non è così, che ci deve essere sempre qualcos'altro. No, non avevamo mangiato nulla perché siamo andati a vedere un complesso lì, là ci mangiamo la pizza e poi andiamo a vedere il complesso. Abbiamo mangiato la pizza, siamo andati a vedere il complesso, ci siamo sentiti male, siamo dovuti tornare indietro per andare in bagno. Poi da Grimbaccia siamo dovuti scappare. Caspita, e poi proprio la pizza. Ti avrei dato ragione, hai mangiato il primo e i frutti di mare magari non erano freschi o sai, queste robe qua. Vai Marco. E ma la pizza e i frutti di mare, la stessa cosa. Non ci avrà messo il Guttalax, no? La pizza e i frutti di mare, basta che il dottore mi ha detto, basta che ce ne sia una solo di cozza o di arsella che non va bene, fa male, magari agli altri non gli fa nulla perché non la trovano quella guassa. E magari l'ha mangiata, infatti quelle chiuse non si devono mai aprire. Invece tu l'hai mangiata col guscio. E allora? Io la cosa non la prendo sempre intera, non la metta come fai tu. Allora, non l'amo io, la metto così. Marco. A proposito di Balai, ma state leggendo sulla nuova gli atti di vandalismo? Ogni notte sfasciano la panchina dell'amore, che io non ho mai visto peraltro, mezzo distruggono la cosa del bagnino, spezzando i remi pure, ma è questione di ogni notte, o macchine bruciate ogni notte, ma cosa sta diventando Polo Torres? Che gentaccia c'è? La gentaccia c'è sempre stata, come tutti i posti c'è, però magari anche gente di passaggio che non è di Polo Torres, tante volte è anche così. Non è detto che sia il Buzzo Turisi, che sia anche gente di passaggio che si diverte. Li avrebbero già sgamati se non di Porto Torres, secondo me. non invadere, non credo che quelli del posto si mettano a fare, perché li sgamano intanto. Secondo me è gente di fuori. Non è gente di fuori, sono le solite greffettine che stanno lì, devastano tutto, tanto la polizia non interviene, i carabini non interviene, perché magari sono minori e giomai manco li puoi toccare. Tutto un bel ambientino, stavano pigliando proprio a Balai, la spiaggia di Balai, a pietre, gente, a parolacce, perché li riprendevano per qualcosa, no? E loro rispondono a parolacce, hanno lanciato pietre. Era proprio gentaccia che non è stata proprio non educata, ha vissuto come il bestiame, così, negli stazzi. Ma guarda, secondo me questa generazione, perché anche qua ho notato, hanno fatto vedere qui sui giardinetti vicino a Conad, prendono a calci i cavallini a dondolo che per i bambini, gli scivoli erano distrutti. Boh, non sanno come divertirsi, allora fanno danni. Ma che gusto ci prendono a fare queste cose? Io non capisco. Rischiano per che cosa? Beh, io non capisco. Io guarda, sono stato un ragazzo, ho giocato, mi sono divertito, ma queste cose non le ho mai fatte. Già, quello è il brutto, non rischiano perché nessuno controlla. Quel giorno che stavano tirando pietre, insultando gente, c'era anche un'associazione di snorkeling, hanno chiamato i vigili urbani, o carabinieri o chi era, non mi ricordo, dice non abbiamo organico. Sì, non abbiamo organico, poi stanno sempre avanti e indietro nel corso con la macchina di pattuglia, avanti e indietro, però quando li chiami non hanno mai organico. Vabbè, contenti loro, certo non è un biglietto, non è un bel biglietto da visita, per una città turistica come Polo Torres. Il turismo lì è di passaggio, non è che sia proprio turistica, è di passaggio il turismo. C'è qualche camper che si ferma, vanno lì al mare, poi riparto. Vabbè, comunque, in ogni caso non so cosa è bene da fare. Sì, quindi non era mia impressione, sta peggiorando in generale tutta la... il modo di fare, eccetera, capito, dei giovincelli, la generazione Z, eh? Sì, magari qualche marachella da piccolo che non l'ha fatta, ma nemmeno lontanamente come queste, assolutamente. Andavano a bussare invece delle coppiette quando stavano zompate, e riuscivano tutti nudi, ma più i ragazzi, e ti bisognari con i pantaloni paravanti. Ah, volevi fare la fine del cetriolo allora? Sì, abbiamo rischiato più volte. Qui, vabbè, ma bussavamo il vetro, non facevamo niente. Erano tutti appannati, invece lo bussavamo. Come non si alzavano per guardare, lo vedevamo tutto da pitta. E noi lo facevamo per quello. Ma niente di che. Perché noi l'abbiamo fatto la pidetta che c'era la grania lì. Prima andavamo a tutte le coppiette. Cos'era quel suono? Trapanando stavo. Stavo trapanando su. Ah, su, non Gianni, credo stessi operando. Stanno su, stanno facendo dei lavori, deve essere. Si trapana già il Gabuga che usa, sempre con questi lavori, so. Gianni ha trapanato ieri, Marco. Per quello oggi è spompato. Vabbè, adesso il Black and Decker è da parte. Allora, ieri ho usato il tassellatore, oggi sto usando l'avvitatore. È il mio Black and Decker a percussione. Ebbene, certamente. Puglia, cazzo, oggi sono distrutto, ma non male. Cazzo, ieri già mi sono divertito, ma oggi, oggi sono proprio più a terra, sono debole. Non leggevo i piedi, Marco, sono andato a lavarmi i piedi. Il ministro mi stavo lavando i piedi, metto un piede per la mano e con l'altro non sono riuscito a resistere, praticamente sono caduto di lato. Meno male che c'era il muretto, il muro nel bagno, perché sennò ci sarebbe... Marco, Deia. Ma secondo te Gianni ha bisogno di una badante? Magari di quelle belle ucraine, quelle delle semi belloce, bionde, occhi azzurri, c'è badante, badante. Io non mi sono lasciato mancare manco quello, ne ho avuto un'ucraina e una russa di badante. A te, eh? Ma loro non badavano, ero io che badavo a loro. E quelle sono pericolose. Perché bisogna saperci fare. Due o tre volte poi ciao. Se non sai la lingua. La lingua già me la dicevano. Una già era un bel carico, un bel bella, era più gli occhi azzurri, bionda, l'altra era così così, ma una già era un bel bellina. Già ti badava bene così? Sì, poi era proprio attaccata, boh. Si faceva mezzo si acciuffava, io. Si avvinghiava proprio. Era il top, ci sono cominciati che... quando stavo con lì non vedevo altro attorno, non ti dico altro. Senti Marco, senti. Dovrebbe farmi scuola. Io l'ho conosciuto su internet, erano badanti, ho chiesto di conoscerci, siamo conosciuti, poi siamo messi insieme. Però massimo una settimana pulire devi mollare, anche a mio mal in cuore, perché un altro, l'ho detto, era bella, mi piaceva. Ma non bisogna, perché già stava dicendo, ti presento i miei parenti, questo, quell'altro, vai. E lì bisogna stare attento, perché o ti fai la vasectomia di nascosto e non dici nulla, sennò quelle vogliono l'incidente per agganciarti del tutto, capito? No, ma questa era proprio passionale, bella. Bella come il sole, ragazzi, c'è questi occhi azzurri, bellissimo, bionda, con i capelli lunghi, occhi azzurri, cazzo, una stangovera. Altro che sardignole. Ci sono le sardignole buone, però vabbè, bisogna provare tutto nella vita, non sono voluto tenere il gusto, me l'ho tolto. Tanto io sono un anima libera, posso fare chi che mi piace, nessuno devo rendere niente di conto a nessuno. Che serata, mamma mia. Una volta sola sono andato al mare, in tutta l'estate. Troppo caldo, non ce la faccio, non è per me, purtroppo. E così non sa come passare le serate. Anche io, che sono andato una volta sola ad Alghero, mi sono tuffato, cazzo, mi è venuto un crampo dal freddo che c'era, mi sono uscito subito, un crampo dietro la cuscia da un dolore. Sì, purtroppo il mare di Alghero, poi Lazzaretto, Bombarde no, è ancora più freddo le Bombarde. Lazzaretto ma è già ghiacciata, è terribile, così è farci male. Poi ripeto, in spiaggia un caldo boia terrificante, molto più che a Platamona. Punta Galera lo stesso, Capo Galera, oppure quella in basso, come si chiama, dove c'è la torre del Porticciolo, ha visto come è infossata, c'è un caldo lì, senti la sabbia e i sassi roventi. E poi devi tornare la macchina o dalle scaline o dall'altra parte. Col caldo, per carità, mai più. Io andavo a Punta Negra a fare il campeggio prima, dove c'era l'hotel Punta Negra, quando ero ragazzo, facevo il campeggio lì. Andavamo ragazzi tutti insieme. Cose turche. No, divertimento. Facevamo i giochi con le penitenze, quanto ci divertivamo. Il campeggio sarebbe bello, anche un po' impegnativo. Io sempre temo, sempre solo il caldo. Ci sono belli quei campeggi immersi nei pini, dove sia ombreggiato, tipo con la tenda o anche col camper, purché ci abbia l'ombra, sennò è come essere nel deserto, è un incubo. Ma se c'è qualche incendio ti scalda bene. A proposito di incendi, c'è un casino tipo, dov'era? L'ho letto sulla Nuova, Bonorva mi pare, tutto incendio, come incendi insomma. Ieri era una giornata caldissima, io stavo bollendo Marco, bollendo, adesso stavo bollendo, e proprio mi sarebbe stata anche caldia perché c'era troppo caldo. Ho messo il condizionatore, un po' mi è passata la tachicardia, però va bene durare. Ehi, Luca, riprendi che vado a bere. Riprendi voi. Luca, riprendetela. Luca è morto. sono andato al freezer a prendere il calippo, mi sta scegliendo il gusto, limone, fragola, arancia. Io ho mangiato ghiacciuli, qui c'era la vaschetta, metta, e ho detto vabbè, due assaggini me li faccia che dalla vaschetta. Quelli li vorrei prendere, perché io vabbè preferisco sempre il gelato, è ovvio, però ogni tanto il ghiacciolo è più dissetante, l'importante è che non sia troppo dolce, se non mette più sete lui che non altro. Le marche non sono tutte uguali, c'era quella confezione, dov'era? Dell'Uspin mi pare. Sono assortiti e te ne hanno tipo due limone, due arancia, due presumibilmente amarena, due alla Coca-Cola, due alla menta, è presente? Sì, così l'ho preso io, la stessa cosa. Diciamo il più banale è la Coca-Cola di solito, più banalotto, ma cioè, l'importante è che rinfreschi poi. E infatti, avanti. Sto scendo già. Sì. Pure fanno scala, sì. Cos'è sta roba? Si sente roba? Alan 87. Caspita, com'è caldo il baracchino. È un baracchino così piccolo e così tanto caldo. Boh, anche le prese d'aria questo. Marco. Sì. Ho detto Alan 87. Ma perché sei fondo scala? Ah, è 10 bar. All'anima. Vabbè, questo è a LED. Però mi accendi il più 30. Ma cazzo, mi avevi più 4, non so se è troppo amplificato. No, troppo no. E in questo modo troppo amplificato? Non è. Sei crollato a 9, cosa è successo? Guarda che c'è un falso contatto. Sei crollato a 9, saturissimo. Hola. Adesso c'è l'alternata, fondo scala con l'alternata. Guarda, 1, 2, 3. Fondo scala, radio 3. Sì, ma il microfono. Però il segnale prima è crollato a 9, mi dà da 9.30 a 9. Sta a falso contatto. E l'importante è che sia assicurata l'antenna però, già un look. Mamma mia, mica, devo ancora bere, riprendete voi. Vai già. Mi assento un po'. Tutti assenti. Ma io ci sono. Stavo leggendo un messaggio che mi hanno mandato. Ed era un po' lunghetto. Grazie, ma di qui ero un po' abbidato, tanto così lungo. Mi tocca leggerlo, ci metto di più. Luca, io adesso vado, porto il cane giù. Sempre che ce la faccio a camminare, a chi si può debole come un cosmo, va bene, per forza lo devo portare, cioè lo devo far venire a Marco qua, deve venire a Piglia, al caldo, non fa dai, potrei chiamare mio figlio, ma per non farlo venire qua. Mezzo non è? No, Marco non c'ha manco patente. Almeno uno scooterino. No, nulla, si deve prendere la macchina, però l'hanno crepato, quindi adesso devo rifare. Per la patente? Vabbè, dipende, può capitare. Sa che addirittura... Ma non sai perché l'hanno crepato. Perché gli si aspetta la macchina e lui è partito in seconda invece che in primo. L'avevo tutti due, sì. Ah, la pratica, è la pratica. Invece sai cosa c'è scritto sulla Unione Sarda Nuova? Che in un'autoscuola hanno tentato di fare l'imbroglio, praticamente il candidato aveva per lo scritto sia un auricolare per sentire le risposte e nel bottone della camicia aveva una micro telecamera per inquadrare le domande e quello da fuori gli dava via radio le risposte tramite questo micro auricolare. C'è roba la James Bond. Beh, se ne sono accorti, hanno fatto fare un giro alla macchina di pattuglia e hanno beccato il tipo fuori che aveva tutto queste trasmittenti, micro auricolari, c'aveva anche un set di camicie, tutto quelle a quella, pronte all'uso con la videocamerina. Adesso sono cavoli suoi e dei candidati. Io vabbè, lo faccio anche una scuola guida, passa a salire per 1500 euro e ci faccio il vaccino ma la pancetta gratis, senza fare esami né nulla. Praticamente ci facevo andare lì, ci passava il compito e via. Demoncio. Chi si ruppo? La cosa strana, ti dirò già, io a scuola già ero uno che non studiava perché non mi piaceva, però a scuola guida io il libro l'ho toccato poco e niente, ti sto parlando del 90, 91, adesso non mi ricordo, il libro l'ho toccato poco e niente, però l'istruttore era così bravo a spiegare che praticamente l'esame scritto l'ho passato subito, o con un errore, all'epoca era così. Se facevi un errore passavi lo stesso, se facevano due errori andavi all'orale, se facevi tre errori eri bruciato. Quindi o un errore o niente, quindi l'ho scritto e passato. Poi ho fatto le guide e è passata la prima anche per quello. E mi è sembrato facile dopo tutto. Senti. Io lo stesso, però adesso uno è più difficile perché ti imbrugliano, ci sono quelle domande a trabocchetto che ti fregano. No, perché io sono passato alla prima, non ho avuto problemi. Io non mi ricordo se fosse la trabocchetto tempo fa oppure no. Perché quelle telefono per vedere se hai capito veramente, no? Perché una, come quelle domande amatoriali, tipo della patente, una è quella giusta, una è una impossibile e una ti può trarre l'inganno, ma non è quella giusta, capito? Io sento qualcuno sottofondo che dice ora, avanti chi chiama? E lui, avanti chi chiama? La Sardegna, città di Sassari, risponde. Vabbè, se la mia luce, c'è la bip e poi diceva ora. Ma Marco, io vi saluto, dai, vado a portare giù il carro, mi lavo su bip, se no poi magari quel giorno anche non ce la faccio. Beh, ci sentiamo, grazie per il questo e buona continuazione di serata, dai, ci sentiamo, ciao Luca, ciao a tutti gli amici che sono all'ascolto. Ehi, ciao Gianni, dai, buona passeggiata per il cane, portalo vicino a casa, cioè non ti allontanare troppo e rimettiti, ok? Ciao, buona serata, ciao. Ciao.